4G. Ascolta e completa. È bene dire la verità. Allora la dica adesso. È bene dire la propria opinione. Allora la dica adesso. È bene dire la cosa giusta. Allora la dica adesso. Lei faccia silenzio, per favore, e loro facciano attenzione. Lei faccia attenzione, per favore. E loro facciano una breve pausa. Lei faccia pure quella telefonata. E loro facciano una passeggiata.